però senza andare a approfondire, poi approfondiremo nei vari pezzi dello scritto di Costantino. Allora, di seguito viene pubblicata una quantità di menzogne e offese provocate dal rudere di culo di Costantino Cavalleri, che nella sua risposta al testo di Radiazione ha incluso un video, ma è un estratto di un'intervista che dura quasi 20 minuti. Dice che non conosce l'anonimo che sta dietro Radiazione, ma ne prende come introduzione un testo firmato dall'anonimo, apparso sulla stintenata di Radiazione, cioè Affinità periodico insurrezionalista. Essendo un provocatore nell'animo, ma mai che dice il fatto o nel suo DNA abbia l'infamia, sono abituato a vaffanculo, all'essere definito una testa di cazzo e tutto il resto. L'infame non lo accetto, come non accetto che tu faccia passare un'immagine di una pecora come un'offesa al popolo sardo che da parte mia. Questa fa schifo quando la tua intervista, evidentemente hai bisogno di sentirti le spalle forti e quindi cerchi di attirare l'attenzione dei compagni sardi in questo modo, viscido e meschino. Non uso il termine infame perché non penso che tu lo sia, a parte un universo che ci divide ideologicamente. Infame non lo sei, ma una grande merda sì, quindi caro passore di libri da quattro soldi, a buon intenditore, poche parole. Se ti aspetti una risposta più approfondita ti lascio affogare dalla curiosità nella tua cara libreria. A parte questo breve intro al tuo testo che dici di aver spedito a sottoscritto e non ho mai pubblicato, altra cazzata perché lo ricevo in questo momento dai compagni di informazioni.info e lo pubblico subito, non risponderò al tuo scivolare aggrappandoti con le unghie sullo specchio. Dovrebbero rispondere tutti i compagni che conoscono quell'intervista, ma sta sicuro che non lo faranno mai, perché tu gli servi a riempire gli scaffali di libri. La mia risposta è la tua intervista a Ballarò, intera. Non il servizio a TG, caro mio filosofo. Da buon filosofo mi hai risedotto anche dal significato di alcuni termini, e di questo te ne ringrazio. Ora posso sputtanarti a dovere e grammaticalmente corretto. Caro Costantino, pubblica l'intervista intera, e se come dici tu che ti ho infamato, allora, se dire che ti ho infamato, io stesso mi autodefinisco un infame a caratteri cubitali su questo blog, e lo chiudo nello stesso momento perché non avrebbe motivo di esistere un blog di infami. Infine troverò l'intervista a San Eccetto, perché devo solo controllare un centinaio di videocassette. Sai che non mi faccio mancare le pietre miliari della filosofia da quattro soldi. E poi avevamo letto, vabbè, già avevo iniziato a dare una piccola spiegazione ai vari pezzi, però lo faremo dopo nella seconda parte. Poi lui introduce il suo scritto con un testo preso da Affinità, quindi conosce bene l'anonimo che ha scritto il testo sulla Radiazione, anche perché lo mette con tanto di firma, cioè anche se è una firma sempre anonima, Jack comunque mette la firma. Allora, il testo che era apparso su Affinità e con cui lui vorrebbe mostrare la mia incoerenza è il seguente. Stiamo facendo il loro gioco, l'ondata repressiva degli ultimi mesi è finalmente servita, lo signori, magistratura, sbirri 007 eccetera, merda, a farci distrarre dal loro operato che tende a distruggere da sempre il movimento anarchico, le migliaia dell'ultimo periodo estivo con compagni che si sono scambiati tra di loro il termine infame gratuitamente. Questo è quello che lo Stato vuole con tutti i suoi apparati repressivi, ed è così che i pezzi di merda ottengono le loro luridi vittorie, approfittando della mancanza di solidarietà tra noi compagni, sferrano altri colpi più duri. In questo momento, in questi momenti, male a chi ci capita di mezzo, perché correrebbe il rischio di trovarsi da solo o da sola. Sia chiaro, qui nessuno sta dicendo che dovrebbe esserci una situazione tutta peace and love, o meglio, volemo tutti bene, proprio perché tale concetto non mi appartiene. I problemi tra i compagni, se di natura personale, vanno affrontati tra gli stessi medesimi compagni, senza pretendere da una parte o dall'altra di farli diventare questioni a livello di movimento. Mentre se problemi con alcuni compagni fossero di natura politica, ognuno di noi, essendo anarchico, se li dovrebbe gestire individualmente come vuole, evitando di propagandare con l'insistenza la calunnia e l'infamare l'altro fin dove non ci fossero prove effettive, creando dei veri e propri tribunali dell'ingiuscio. Avevo dato una rapida spiegazione a tutto ciò, anche perché lui scrive questo cercando di mostrare la mia incoerenza, ma nonostante io dopo 11 anni, perché questo è un articolo apparso su Affinità, del numero 3 di Affinità del settembre 2002, nonostante 11 anni abbia cambiato anche un attimino la visione di vedere certe cose, comunque tanto lontano non ci si va, anche perché scrivo che fin dove ci, non ci fossero prove effettive, questi dovrebbero essere cazzi tra un compagno e l'altro. Questi non sono cazzi tra un compagno e l'altro. Questi sono una cosa un pochino più allargata, cioè una persona che è andata a parlare in TV e a andare a fare delle critiche con dei giornalisti o in una trasmissione che è Ballarò. È inutile spiegare che trasmissione è, penso che i compagni in Italia la conoscono benissimo. Allora, ora ci ascoltiamo un brano che è dei 24 Clan, quindi si ricomincia da capo, il brano Rappresento, e poi dopo si inizia a leggere il testo di Costantino. Non ho niente da dire su ciò che rappresento, mani da tagliare tutto quello che io sento di fare. Amo le cose da sporcare ancora, alito culo, faccio tutta roba per guardarmi avere niente. Io non guardo, non vedo, non sento, è tutto ciò che rappresento lo invento. Resto sorto e mi sento toccare, alito distratto, qualche cosa da baciare ma brucia. È tutto quello che so dirmi, allora stanco e disegno le trame. Con l'acido di base io volo su e la mia, ancora oggi mi sento più vivo. E tutto quello che c'è di bello lo aspiro. Lascio un corpo permanente per trovarmi nuovamente in giro. Lascio gli occhi a guardare la gente, per guardare me stesso mi devo veramente. Non ho niente da dire su ciò che rappresento, bibito a pilare senza l'ombra di un accento. Tavola omicida non ancora terminata per la folle di partita del momento. Non ho niente da dire su ciò che rappresento, niente da dire su ciò che rappresento. Lascio tutti a pensare solo al fatto che io mento, vedo diagonale in una pancia di cemento, scatola miliare nel percorso cerebrale del memento. Appena un unico accento sul tempo, sulla voglia di fare di ciò che rappresento. Sul tempo, sulla voglia di fare di ciò che rappresento. Allora erano 24 Grana con il brano Rappresento, quindi passiamo alla lettura del testo di Costantino, che lo inizia con un po' di glossario tratto dalla Enciclopedia Italiana Treccani, da buon filosofo, ci rende tutto. Infame, di persona che per scelleratezze e turpitudini commesse si è resa indegna della pubblica stima. Infame, a condizione di disonore e biasimo pubblico grave, in cui viene a trovarsi una persona che abbia commesso azioni vergognose o conduca vita notoriamente riprovevole, o chi abbia subito pene che portino come conseguenze una diminuzione dell'onore. Idiota. Persona di scarso intendimento, stupido, deficiente. Imbecille. Chi per difetto naturale o per l'età o per malattia è meno matto nella facoltà mentali e psichiche. Dignità, condizione di nobiltà morale, in cui l'uomo è posto al suo grado, dalle sue intrinseche qualità, dalla sua stessa natura di uomo e insieme il rispetto che per tale condizione gli è dovuto e che egli deve a se stesso. Dignitoso. Di persona che ha il sentimento della propria dignità e agisce in modo di serbare questa intatta. Scemo. Più com di persona scarsa di intelligenza, stupido, sciocco. Fuori collana. Testa di cazzo, modo di dire comune per indicare quanti, pur rassomigliando alle persone, scemano di materia grigia e pertanto di qualsiasi criterio nell'operare e nel rapportarsi agli altri, essendo privi di buona parte di tale materia, credono di sostituire la parte mancante con atti di prepotenza, scendendo così nell'infamia vera e propria. Ora passiamo al testo. Cronologia indispensabile. Anno 2013, come dice Costantino. 8 settembre appare sul blog di Radiazione lo scritto del titolo, dal titolo Messico, iniziativa sugli anarchici informali, filosofi in viaggio per riciclarsi. Lui rimanda il link, comunque sta sul blog, chi lo vuole se lo fa rileggere. 14 settembre, un compagno mi mette a corrente dello scritto apparso su Radiazione, mi trovo a centinaia di chilometri di distanza da casa, per cui non posso prenderne visione se non al rientro. 15 settembre, rincasato alle prime ore e letto lo scritto, redigo un primo documento di risposta alle menzogne e insinuazioni che mi vengono sputate addosso e l'invio all'indirizzario email in mio possesso, oltre che al solito contatto possibile con Radiazione, una mail, che ad oggi non ho ancora pubblicato. Di seguito il mio primo documento integrale. Di fronte a uno o più fantasmi che si celano all'anonimato e che per 10 anni se ne sono stati zitti zitti in merito ed oggi cercano di babbettare e soprattutto di insinuare, rispondo al momento alcune cose semplici semplici. Allora, inizio a risponderti su qualcosa, Costantino. Allora, io tra il tuo vocabolario ci metterei lo spione. Spione, chi è lo spione? Chi porta la spia? Chi e quindi chi indirizzato a chi è venuto da te e ti ha portato il testo di Radiazione per fartelo leggere. Comunque, a parte questa, cazzata, io sono un cazzaro, lo so, e mi piace definirmi tale. L'articolo era pubblico sul blog di Radiazione, quindi potevano anche evitarsi di portartelo, anche perché poi si tratta di gente che è molto interessata alle galassie anarchiche, agli anonimati e a fare a vendere libri, e si è creato un lavoro come il tuo a fare, a ripubblicare testi di compagni anarchici vecchi per farci un po' di soldi sopra. Per quanto riguarda il tuo scritto che dici di aver indirizzato a Redazione, te lo dico col cuore, non è mai arrivato, altrimenti come l'ho pubblicato ora l'avrei pubblicato già allora e avrei già dato la risposta, forse già si sarebbe chiusa la discussione, anche se non si chiuderà mai, perché cioè, fino a quando non trovo l'intervista chissà che tra me e te, ma tra me e te non c'è un cazzo, non ci sarà un cazzo, ma perché non c'è mai stato un cazzo, non condividiamo niente ideologicamente. Allora, andiamo ai due punti in cui che vuoi discutere. Vi sono sempre stati compagni e compagni che si sono trovati d'accordo sul utilizzo dei media padronali, in ogni occasione e situazione, altre, io tra questi, che hanno voluto luoghi e opportunità, valutato luoghi e opportunità sulla base delle cose che si fanno sul territorio, di accettare o meno possibili interviste, giusto o errato che per gli altri fosse allora, e che io oggi la valuti in un modo o nell'altro. Certo che il silenzio nei miei confronti, pur essendo note la mia residenza e le mie attività di movimento mai dismesse, da parte di anonimi che non sono, che non solo non si firmano e mi negano ogni possibilità di raggiungerli nella loro residenza per un confronto, solleva forti dubbi sulla reale identità dell'autore e sulle reali ragioni della sua infame azione, ancor più se costui, ritenendo così infamante rilasciare interviste ai media, radio, tv, carta stampata, evita in un luogo panegirico e vari gargarismi, ad esempio di nominare anche una mia intervista rilasciata intorno all'epoca di quella televisiva ad un periodico di regime in un altro paese nell'ambito di iniziative organizzate da una situazione di movimento o da questa propostami. Situazione di movimento che il nostro, con la N maiuscola indirizzata a me, se davvero fosse anarchico coerente, ma che prudentemente si pare il culo dichiarandosi incoerente, facile no tentare di scansare ogni responsabilità, dovrebbe condannare, cosa che si guarderà bene da fare pure nel più totale anonimato. Secondo punto, data l'urgenza della risposta all'infamia nella situazione particolare immediata in cui mi trovo, non posso che riaffermare la mia maniera di intendere praticare l'intervento anarchico insurrezionalista, che vada bene o meno o bene agli altri. come l'ho da diversi illustri maturato, senza nascondermi nell'anonimato, e non mi sono di certo smentito nella intervista di cui mi si accusa. Il concetto di rivoluzione si intende che il termine rivoluzione è il mutamento radicale di uno stato di cose, rivoluzione sociale indica il mutamento radicale di una data società e che in un'epoca capitalistica tale concetto afferma la necessità e volontà di un mutamento radicale della società in funzione di nuovi rapporti materiali e spirituali in cui è impossibile lo sfruttamento, l'oppressione e la servitù. Qua ci fa lezioni di rivoluzione. Ritengo che l'anarchismo il rivoluzionamento sociale così concepito possa scaturire esclusivamente dall'insurrezione generalizzata. Per insurrezione si intende qui quel momento distruttivo di legami, ruoli, istituzioni, sedi, uomini e potere costituito. Insurrezione generalizzata esprime quella realtà in cui tale distruzione è operata da parti consistenti da quella subalterna, dalle masse subalterne. Risulta pertanto evidente che il momento dell'uso della violenza anche da parte rivoluzionaria e non solo da parte del potere è implicito nel concetto medesimo di insurrezione, ma il ricorso alla violenza il momento dell'uso delle armi non esaurisce né il processo rivoluzionario né il momento dell'insurrezione, almeno per l'anarchismo. Il progetto di intervento anarchico insurrezionalista situa l'uso delle armi nel contesto complessivo della lotta, in sincronia e al sostegno di ogni altro momento dell'intervento, dall'intervista a cospirazione acrata. Questi sono i primi due punti toccati da Costantino. Allora, Costantino, uno, a me non me ne frega un cazzo se tu vai a parlare o meno con giornalisti, se rilasci meno se rilasci o meno interviste ai giornalisti. A me interessa il fatto che tu, dopo aver rilasciato un'intervista in cui parlavi sugli anarchici informali, ti sollecito a rendere pubblica tutta l'intervista che sicuramente tu avrai e non farai perdere tempo a me a cercarla tra 100 cassette, fai una bella e forte critica a questo tipo di azioni, a questo, definendolo non insurrezionalista, perché il movimento dell'insurrezionalismo è altro. Quindi a me, io uno non l'ho scritto nel mio testo, non ho mai chiamato infame nessuno nel mio testo, so bene usare il termine infame, quindi me ne guardo bene dall'usarlo quando e quando non devo usarlo. Quindi evita di scrivere che qualcuno ti ha dichiarato infame. Chi ascolta la radio può saperlo, perché o ha letto il testo su radiazione oppure l'ha sentito durante la diretta d'azione che lo leggevo. Seconda cosa, vabbè, a parte tutta la pippa sull'insurrezione, questo testo, quando riguarda il discorso della violenza, il stesso discorso della violenza che tu hai criticato in quella trasmissione, quindi io, se non devo darti una risposta più approfondita, è proprio perché nelle tue parole te la sei data da solo, quindi io non perderò il tempo ora ti rispenderò a pezzi per pezzi, perché poi qua questa diretta andrà in podcast, può essere che l'ascolterai, può essere meno, spero che l'ascolti, almeno senti pure la voce, il nome e cognome non te lo dico, puoi andare in qualsiasi questura d'Italia, in qualsiasi caserma dei carabinieri, in qualsiasi procura, te lo daranno loro sicuramente. Ora ci ascoltiamo un brano prima di passare alla seconda parte del documento. Ora sono Zone A con un brano che è un brano impronunciabile perché è una band punk slovacca, e poi dopo si torna qua e si cercherà di portare pure a termine, anche perché dobbiamo dare spazio alla lettura con Marcello. Allora, Zone A e poi dopo qui per rispondere a Costantino. Každý o tebe vie, čo si zač. Čekáš, proč na školu sa nedivím. Chceš si žiť len tak zo dňa na deň. Značíme ťa beznádejný prípad, do pakárne s ním je to beznádejný prípad, do pakárne. marnie s nimi je to beznadejný prípad. Do pakárne s nimi je to beznadejný prípad. Do pakárne s nimi je to beznadejný prípad. Každý o tebe vie, čo si zač, že nechceš pracovať, sa nedivím. Chceš si žiť len tak zo dňa na deň, hľadať sa aj ja by som to chcel. Nájdeme ti miesto, kde budeš bývať, označíme ťa bez nádej. Do pakárne s nimi je to beznadejný prípad. Do pakárne s nimi je to beznadejný prípad. Do pakárne s nimi je to beznadejný prípad. Do pakárne s nimi je to Allora Marcello mi dà una mano a leggere il testo, così lui legge e io interrompo. Ah, così continuiamo, in modo con due voci si sente più la differenza tra un testo e una risposta, e comunque ricordando che da queste frequenze chi anima queste frequenze condivide quello che viene scritto e condivide tutte le posizioni. Eravamo al punto 3 dello scritto di Cavalleri. Come minimo sarebbe opportuno pertanto che l'incoerente anonimo non solo precisasse cosa è che gli prude, se la posizione mia che emerge anche dall'intervista, oppure se il fatto in sé di averla accettata, oppure ancora se per entrambe le questioni, se non altro, avremo un preciso oggetto del contendere. 4. Più di tutto, per quanto incoerente sia l'anonimo, è opportuno metterci alla pari per l'eventuale confronto. Il mio nome e cognome è noto al pubblico, il mio indirizzo altrettanto, e il suo? Ovviamente sarebbe corretto, salve manifesta incoerenza, che si pubblicassero integralmente queste mie righe dalla prima all'ultima, nello spazio che merita. Allora, ora prendiamo subito questi punti qua. Lui dice che praticamente io mi rendo anonimo dietro il nome di radiazione, cosa assolutamente non vera, perché ho sempre detto, e c'è uno scritto che è uscito all'epoca quando è nato il blog di radiazione, che spiegava radiazione cosa era, cosa voleva essere, da cosa veniva. Radiazione è viene da un continuo, è un modo diverso di portare avanti il progetto Affinità, che era finito nel 2007, per alcuni problemi proprio col movimento anarchico, quindi decisi che non avevo più nulla da dire a nessuno e finì il progetto di affinità periodico insurrezionalista. L'anno scorso ho deciso di riprenderlo, ma in modo diverso, attraverso Radioazione, attraverso una radio che va via web, in cui oltre a metterci la parola scritta, anche se non c'è la firma, c'è la voce. C'è la voce, ma per me è una cazzata, cioè, ho fatto dell'anonimato, anche perché c'è su affinità, se lui pubblica e sa benissimo chi è che porta avanti Radioazione, citando come prima parte introduttiva al suo testo, e come introduzione uno scritto mio apparso su Affinità nel 2002, sa benissimo chi sono, quindi cioè, penso che cioè, chi è, se c'è un paraculo in questo caso è lui. Certamente io non darò il mio nome e cognome, chi mi conosce, conosce la voce, lo sa bene chi sono, altrimenti non metto a dare nome, cognome e indirizzi attraverso internet, come lo fa anche lui, addirittura mettendo l'indirizzo. Vabbè, poi lui ce l'ha anche perché porta avanti il suo progetto di libreria, stampa libri, Repubblica, fa opuscoli di merda, come qualche anno fa un opuscolo contro l'aborto, che poi dopo lui stesso tratta nel suo scritto. Ora andiamo avanti un attimo con il testo. Impegnato in serie vicende di movimento, ho dovuto, per questioni di priorità, rimandare di qualche decina di giorni la risposta definitiva all'infame operazione del blogger di Radioazione. Chissà che significa blogger. Prima di entrare nel merito del contenuto, dico due cose sul metodo utilizzato dall'autore degli scritti che mirano ad infamarmi. Uno, il titolo. Messico. Iniziativa sugli anarchici informali. Filosofi in viaggio per riciclarsi. Siccome nell'articolo si parla solo di una persona, è evidente che si è operato alla stessa maniera dei media padronali, giocare quindi sul titolo, anche se afferma il falso, per rendere più appetibile la merce. L'evidenza della discrasia tra il titolo e l'articolo è stata fatta notare dall'autore, come afferma egli medesimo in quella sorta di cappello aggiunto il 17 settembre, ma il nostro autore, anonimo, invece di prendere atto della cazzata commessa e porvi rimedio correggendola, avanza confusamente giustificazioni improponibili, blaterando sul plurale maestatis, ben conosciuto di certo ai filosofi che sanno ovviamente farne buono e corretto uso, che non vi entra assolutamente nulla. Allora, per quanto riguarda l'articolo, non mi ero dimenticato una cosa, non ho condiviso un cazzo di quello che aveva detto lui nell'intervista, quindi lo dico di base. Per quanto riguarda l'articolo apparso su Radioazione, informava solo i compagni, l'obiettivo era quello di informare i compagni messicani che avevano invitato una persona a parlare sugli anarchici informali, la stessa persona che li aveva criticati anni prima su una rete nazionale televisiva. Poi dice che praticamente è evidente che si è operato alla stessa maniera dei media padronali, giocare sul titolo anche se afferma il falso per rendere più appetibile la merce. Radioazione di merce non tratta, perché rispetto al signorino, vabbè, c'ha una certa età, vecchietto, Radioazione rende gratuiti tutti i testi, opuscoli, CD e tutto gratuito, perché non crede nel commercio, non crede nel copyright, non crede nelle idee messe in vendita attraverso dei libri e fare tirare su dei soldi, quindi cioè, questa è una gran minchiata da parte sua. E poi non ho usato il plurale maiestatis, che avevo detto ben conosciuto da certi filosofi che sanno ovviamente fanno buon e corretto uso. Non era plurale maiestatis, basta rileggere anche la grammatica, te lo dice un ignorante. Piccolo inciso prima di continuare con il testo: anche l'operazione delle letture che stiamo portando avanti oramai da un anno significa restituire il senso delle cose e non lucrarci sopra, per cui la merce, per cui evitare che i compagni che vogliono leggere dei libri e dicendo debbano essere costrette a spendere soldi, okay, anche perché le nostre tasche sono bucate comunque. L'iconografia, riprendiamo dal testo. In testa allo scritto, a mo' di illustrazione didascalica, il nostro autore anonimo ha pubblicato la foto di una pecora, replicando in tal modo il concetto che dei sardi viene quasi quotidianamente esternato dai più gretti razzisti. Uno degli episodi che mi sovvengono è l'affermazione pubblica di qualche anno fa del Savoia mancato re d'Italia, sputtanato dal meccanico che gli rimise in sesto il suo barcone in un porto del nord-est della Sardegna, ma al quale non pagò il conto. Ebbene, il Savoia re fallito, nel tentativo di screditare l'onorabilità del meccanico, fece ricorso all'icona razzista secondo cui i sardi puzzano come le loro pecore. Ora, che un sedicente anarchico ricorra a momenti chiaramente razzisti a sostegno dell'operazione finalizzata ad infamare una qualsiasi persona, mi pare la dica tutta su di lui. Posso comunque assicurare il lettore che il fetore di certe merde umane è ben più stomachevole della puzza delle pecore della mia. Allora, questa forse è una, cioè, a parte il termine infame che ricorre continuamente e che viene appioppato al sottoscritto, e che comunque, vabbè, questa poi ce la ce la vedremo a quattro occhi, tira fuori sta cosa che è molto meschina e molto viscida. Cioè, nella sua insicurezza, visto che gli rode così tanto il culo, si sta attaccando ad una foto pubblicata su un blog, la foto che praticamente era sull'articolo, sullo scritto di radiazione che raffigurava una pecora, dicendo che attraverso questa foto io avrei voluto offendere il popolo sardo. È una cosa molto schifosa, mi dà del razzista, addirittura fa il paragone con un re d'Italia mancato che ha detto i sardi puzzano come loro pecore. Non era questo, non era riferita alla pecora, era riferita più che altro all'articolo, alla gente che praticamente non dice un cazzo, alla gente che conosce quell'intervista e non ha mai scritto un cazzo, gente che non dice un cazzo anche se la pensa come me e non come Costantino, ma non dice un cazzo soprattutto perché deve riempire gli scaffali di libri che gli spedisce Costantino, e quindi tutto questo gioco di merda. Non lo so, Le pecore ci sono simpatiche, al limite non ci piacciono i greggi, ci piacciono i branchi. Comunque, cioè, la pecora era riferita a queste persone qua, nemmeno tanto a lui, poi si attacca sulla puzza del pecorino, ma era riferito a lui, ma non è riferito ai sardi. E poi informo il signor Costantino Cavalleri che ho avuto modo anche di parlare con qualche sardo e non mi sembrava così tanto offeso. L'anonimato. Rimarco la vigliacca, oltre che infame operazione dell'autore che si nasconde nel più assoluto anonimato, metodo prettamente inquisitoriale tuttora in auge presso tutte le istituzioni dello Stato. Prassi stalinista. La correttezza, non solo degli anarchici per carità, ma di qualsiasi persona onesta, vuole che le accuse rivolte contro chiunque siano contestualmente accompagnate alle prove. Ma ciò non vale per l'infame anonimo di Radioazione, il quale in Messico, iniziativa sugli anarchici, il titolo dell'articolo postato sul blog, come prova della sua insinuazione riporta solo le sue parole e quelle di chiunque parlerebbe male del sottoscritto. In un chiarimento aggiornato promette che appena possibile si renderà pubblica l'intervista su questo blog, senza che a distanza di 3-4 settimane ciò sia stato fatto. È il modo di agire tipicamente stalinista: fai circolare su qualcuno la menzogna più infamante, tanto a furia di ripeterla diventa verità per il più. Ve le ricordate tra le molteplici le accuse degli stalinisti spagnoli e non solo contro i comunisti del PUM, accusati con tanto di prove che sarebbero state pubbliche in un secondo tempo di essere al soldo dei fascisti e dei tedeschi? Ma non solo al PUM, anche ai compagni di Buenaventura Gurruti delle brigate anarchiche rosso-nere del tempo, vogliamo specificare. Date queste caratteristiche proprio dell'anonimo infame, è ovvio che si sia ben guardato dal pubblicare anche solo come commento al suo scritto la mia prima mail che inviai pure a Radioazione. Ma allora, partiamo dall'anonimato. Lui rimarca ancora questa cosa dell'anonimato, che faccio il paraculo perché mi firmo con una firma Radioazione, e quindi non metto nome, cognome, indirizzo come fa lui. Sta cosa non mi interessa, lui sa benissimo. Dietro il giornale Affinità, se ricorda bene, c'era nome e cognome, l'indirizzo è quello vecchio, non è quello nuovo. Però nel caso si sa. Cioè, ci si conosce un po' tutti, quindi non c'è bisogno di andare a leggere l'indirizzo, il mio indirizzo di residenza attuale. Per quanto riguarda la prassi stalinista, beh, cioè, non mi spaventa niente, anche perché se lui parla di manovre inquisitoriali, io sono stato vittima delle stesse accuse che mi fa Costantino, però fatte dalla magistratura, perché un po' di anni fa, nel 2004, insieme ad altri compagni di Pisa, venimmo arrestati per l'operazione sulle corro, cellule offensive rivoluzionarie, un gruppo stalinista, anche se si definiva anarchico, ma comunque cioè, dai testi e dal documento di presentazione di quel gruppo si capiva benissimo di che stampo era, quindi cioè, la prassi stalinista, cioè, ma poi per quale motivo? Perché ho detto che pubblico un video sul blog e non l'ho fatto ancora perché ancora non l'ho cercato. C'ho da controllare veramente un centinaio di videocassette su cui c'ho un bel po' di cose, cioè film, cazzate, cioè, però c'è pure l'intervista, perché quella me la conservo per sputare in faccia a chi di dovere prima o poi, come è successo poi con Costantino. Andiamo avanti con lo scritto. Dello scritto Messico, iniziativa sugli anarchici informali e filosofi in viaggio per riciclarsi, qui di seguito riporto la parte che interessa il sottoscritto. Senza internet non avremmo mai saputo che dall'altra parte del globo ci sono anarchici che guardano affascinati a qualche elemento, mi disturba chiamarlo individuo, che in Italia lascia interviste alle reti televisive nazionali su come dovrebbero comportarsi o meno gli anarchici informali e insurrezionalisti. Tale elemento, per circa 15 minuti, davanti alle telecamere della TV di Stato, Rai 2 o Rai 3, ha criticato gli attacchi della FAI informale e di altri compagni all'indomani dei pacchi bomba e dell'attentato vicino alla casa dell'ex premier Romano Prodi. Ma non solo, perché ha criticato attraverso la sua saggezza salata come un pecorino qualunque azione fosse avvenuta in quel periodo in Italia. Ora, tale elemento approfitta di una gita in Messico per lavarsi la faccia, perché sa che dall'altra parte del mondo non guardano la TV italiana, e quindi va a dare lezioni di filosofia sull'insurrezionalismo o anarchismo informale. Certe cose vanno dette ai compagni ignari e non vanno tenute nascoste, perché, come accade spesso in Italia, e parlo solo del bel paese perché conosco bene la situazione, si fa sempre buon viso a cattivo gioco. Chiunque parla male di elementi come questa persona, ma chiunque, facendo finta che la cosa non gli riguarda, gli fa richiesta di libri opuscoli per riempire gli scaffali delle biblioteche anarchiche. Alla dignità si preferiscono scaffali di saggezza. Siccome l'anonimo si limita a sproloquiare senza che a sostenere le sue infamie vi sia uno straccio di prova, credo che faccia riferimento all'unico episodio dove una mia intervista rilasciata per il circuito regionale TV sia stata rimandata in onda a livello nazionale. Se ne può prendere visione all'indirizzo http youtube. Vabbè, c'è il link. C'è il link, lo trovate. Chi prende visione del filmato, anche con un minimo di attenzione, si rende conto che il testa di cazzo non sa neppure di che cosa scriva. Al più si basa su nebulosi ricordi di qualche cosa che ha visto e sentito ben 10 anni fa circa, oppure molto più semplicemente sul sentito dire. emergono invece dai suoi scritti e ben sostanziose la sua credine e le molteplici falsità difficilmente riscontrabili in così poche righe inscritti anche del peggior nemico. Questi, servizi segreti inclusi se non altro, usano studiare le fonti a cui attingono le notizie per costruire di sopra quel che gli pare. Di seguito l'elenco di tutte le falsità dell'infame. Ah, vabbè, leggi un paio di... Ah. Non ho mai ad alcun media che non fosse a circolazione regionale rilasciato interviste Rai Nazionale inclusa. È pertanto falso che ne avrei rilasciato a Rai 2. B. È falso che avrei criticato per circa 15 minuti gli attacchi alla FAI informale o chi che sia, risultando invece che mi si è fatto parlare per un solo minuto e 24 secondi. C. È falso che nella intervista da me rilasciata vi entri in qualche modo Romano Prodi, la fa informale altre situazioni specifiche di movimento. D. È ancora falso, a maggior ragione, che abbia mai preso anche solo un centesimo una delle vecchie lire per una qualsiasi intervista, come invece con veemenza tipica dei testa di cazzo menzogneri colti con le mani nel sacco, afferma l'anonimo imbecille, secondo il quale avrei anche intascato del denaro, dato che i signori della televisione sono molto caritatevoli nei confronti di chi rilascia interviste così lunghe. Allora, lui praticamente in questo pezzo dice di aver lasciato un minuto e venti di intervista. Falsissimo, falsissimo. Io invito chi sta in ascolto, e poi cioè, io spero di trovare presto l'intervista, perché l'intervista, quella lunga, non è un minuto e venti, ma bensì dai 15 ai 20 minuti, in cui il signorino, il vecchietto, fa critica sull'insurrezionalismo, dicendo cosa è insurrezionalista e cosa non lo è. Poi mi paragona, dice che emergono invece le sue scritte ben sostanziose le sue credine e le moltiplici falsità difficilmente riscontrabili in poche righe inscritte anche del peggior nemico, e fa l'esempio dei servizi segreti e quant'altro. Beh, questa questa è una cosa un po' schifosa, cioè praticamente sta paragonando ad uno sbirro, anche già prima nella parte precedente dello scritto in cui dice che io mi nascondo e quindi non si sa chi si cela dietro questa firma di radiazione, potrebbe essere chiunque, la fonte potrebbe essere scritta da chiunque, quindi potrebbe essere scritta anche da uno sbirro, visto che attacca un compagno anarchico di una certa età. A queste cose io preferisco non rispondere a voce, preferisco rispondere in un altro modo. Poi inizia ad elencare i punti in quali dice che io ho detto il falso, dicendo che non ha mai dato nessuna intervista, ho rilasciato interviste a giornalisti, a Rai Nazionale incluso, e pertanto falso che ne avrei rilasciata a Rai 2. Ma quella di cui ha messo il link su YouTube era Rai 3, che non cambia, è una rete nazionale, quindi o per lui forse Rai 3 è di sinistra, quindi sono più compagneros. E poi dice che è falso che ha criticato per 15 minuti gli attacchi della FAI informale. Dice che ha parlato un solo minuto e 24 secondi, un solo minuto e 24 secondi in quel servizio del telegiornale, ma nella trasmissione Ballarò non ha parlato un minuto e 24 secondi, ha parlato di più, ha iniziato a dire cosa era insurrezionalismo e cosa non lo era, ha parlato anche dei vari attacchi, ora non ricordo bene in che modo, però era un modo bello critico, che ci sta pure fare una critica agli attacchi della FAI informale, ci sta, però andarle a fare in una rete nazionale fa schifo. Al limite lo scriveva in qualche suo opuscolo, in qualche suo scritto, lo faceva girare nel movimento, ma andarla a dire ai giornalisti di una rete nazionale in cui avevano costruito una trasmissione televisiva sugli attacchi, e quelli erano gli attacchi, lui dice che non ha mai parlato di Domino Brodo, ma la sua intervista rientrava nella trasmissione che era dedicata pochi giorni dall'attacco di Romano Prodi e altri attacchi che erano avvenuti da parte della fa informale. Andiamo avanti. Se invece della credine e fretta di svolgere il ruolo di Castigamatti, l'idiota si fosse comportato correttamente, andando quindi a verificare la fonte delle sue straordinarie notizie, avrebbe scoperto probabilmente che l'intervista a cui si riferisce venne riproposta su Rai 3 nazionale e non su Rai 2 come ha asserito. Cambia, cioè, compagno, compagnero. Nel corso del programma Ballarò, è che essa la rilasciai per un servizio di Rai 3 Regione Sardegna al giornalista Paolo Piras per il servizio Anarchia in Sardegna. Che Rai Regione non è Rai Nazionale. Regolarmente è andato in onda su Rai Sardegna e replicato nella rubrica del sabato TG Regione settimanale del 17 gennaio 2004. E posta il link. Non posso adesso, a distanza di 10 anni, ricordare esattamente il giorno che rilasciai l'intervista, ma non è affatto improbabile che essa risalga addirittura ad un periodo precedente l'arrivo del plico esplosivo a Romano Prodi, 27 dicembre 2003. Però è certamente precedente l'arrivo, lunedì 12 gennaio 2004, della busta contenente proiettili e quant'altro al suo recapito in bucata in Sardegna. Infatti, il programma Ballarò di cui si tratta andò in onda il giorno martedì 13 gennaio 2004 ed avendo attinto al programma regionale la mia intervista, servizio già bello e pronto chissà da quanti giorni, ne consegue che l'infame è pure un grosso imbecille. E qua penso che l'imbecille se l'è dichiarato da solo, perché uno fa la differenza tra Rai 2 e Rai 3, ma è sempre Rai, cioè, ho sbagliato io, ho scritto Rai 2, pardon, è Rai 3, ma anche TGR, anche TGR, TGR, non è che... cioè, non cambio cazzo. E poi se ti vai a lamentare che degli giornalisti hanno usato la tua intervista per farla rientrare in una trasmissione televisiva, su cazzi tuoi. La prossima volta, sapendo di che pasta sono fatti certi pennivendoli, ti assicuri e non gli vai a rilasciare interviste. Quindi secondo me con questo breve pezzo ti sputtani da solo. Dica chi legge queste righe e prende visione dell'intera documentazione, ma che siamo in tribunale, se una carogna che agisce in questo modo può vantare anche una sola briciola di dignità. E per terminare con lui, se davvero volesse riacquistare quel minimo di credibilità per evitare di sprofondare nell'etamaio, prenda l'esempio dell'autrice dell'opuscolo contro l'aborto, a cui fa riferimento nel suo aggiornamento necessario, che, quando si è resa conto di aver attinto a fonti menzionieri e ai fotomontaggi, ha conseguentemente accettato l'errore e lo ha pubblicamente ammesso. Cita un link di informazione.info, i compagni possono andarsela a vedere. Risulterà evidente al lettore che l'infame operazione nei miei confronti è stata tentata da persona poco onesta, peraltro ignorante e infine bugiarda e imbecille, a cui evidentemente nulla importa della propria dignità e ancor meno di quella degli altri. Insomma, va bene che non importa niente della mia dignità, è un po' è un po' una barzelletta. Lui stesso scriveva prima del fatto che io stesso mi definisco incoerente, ma la mia incoerenza è data dal fatto, se io scrivo che sono incoerente, è perché comunque, cioè, portando avanti un certo tipo di blog, un certo tipo di blog che non tratta tutti gli argomenti del movimento anarchico, ma altri argomenti, quelli un pochino più radicali, comunque, cioè, alla fine si trova a lavorare, si ritrova a pagare un affitto in una casa, quindi a dare credito ad una proprietà privata, al lavoro salariato, alla vita quotidiana. C'ho un telefonino, di cui non diamo il numero, però sebbene molti lo sappiano, però. E quindi la mia incoerenza fa parte di tutte queste cose, ma io la, cioè, la mia incoerenza, io vado fiero della mia incoerenza, perché cioè, ma non vado fiero del fatto di andare a lavorare, il fatto di pagare l'affitto, quello mi rode il culo, però comunque cioè, se io non vado a lavorare non cambia un cazzo se poi altri 100 milioni di persone ci vanno. Sicuramente la libertà non, va, non, non sono alla ricerca di una libertà individuale, ma di una libertà totale. Quindi il fatto che io possa decidere di non andare a lavorare vale poco come discorso. Sarebbe come gli elfi che se ne vanno in montagna e pensano di aver raggiunto la loro libertà, aver raggiunto il mondo dei sogni. Quindi poi per quanto riguarda l'opuscolo contro l'aborto, cioè, a me me ne frega un cazzo che poi dopo Silvia Guerini ha dichiarato pubblicamente e ha ammesso pubblicamente di aver fatto una cazzata. Le idee che stanno in quell'opuscolo sono di stampo nazista e cattolico. Cioè, nemmeno Ratzinger, nemmeno Wojtyla poteva arrivare a tanto. Con tutto Francesco, cazzo si chiama lui, il nuovo. Quindi cioè, che lei dopo è andata a fare un mea culpa di quello che ha scritto nell'opuscolo, a me me ne sbatte i coglioni. La cosa che a me fa pensare è che all'epoca il signor Costantino Cavalleri, leggendo quell'opuscolo e decidendo di pubblicarlo e mandarlo in stampa, ne ha condiviso le idee, perché io non vado a stampare e a di dare un libro, un opuscolo di cui non ne condivido le idee, addirittura sono totalmente lontane. Quindi che poi mi viene a dire che Silvia ha fatto un mea culpa attraverso uno scritto, ma sti gran cazzi. Allora, questa era per quanto riguarda un botta e risposta con Costantino, poi se lui avrà modo di sentire questo podcast mi può rispondere, la mail la trova nei contatti, redazione @autistici.org. Evidentemente hai sbagliato indirizzo quando hai mandato la prima mail, perché oggi l'ho pubblicato, non vedo perché non l'avrei dovuto pubblicare 10-15 giorni fa. Quindi se c'è da dire qualcosa, scrivilo. Al limite tramite mail ci possiamo scambiare anche il numero e indirizzo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono The Rudiments, il brano è Wailing Fiddle, e poi dopo si torna qui e si torna però con un'altra lettura, la lettura della Zandraia di Marcello. Skin. Ice your knuckles. Ci parla di chi lavora nei porti, di chi lavora a bordo delle navi, di chi esercita un lavoro suo malgrado, giusto per costruire, per offrire un ponte a chi ci sta ascoltando in questa diretta sopra le righe di oggi. Radioazione è sicuramente il risultato dell'attività di pochi, ma più individui, e quello che viene pubblicato, e quello che viene scritto e condiviso, se non accettato ed è rivendicato, possiamo usare un termine che ci piace, da tutti coloro che ne contribuiscono a portare avanti l'attività, e soprattutto riguardo alla questione di firmare, di mettere nome e cognomi. C'è stato e anche sul sito visibile delle volte gli autori dei libri che abbiamo letto e che stiamo leggendo. Il nostro problema non è nasconderci, il nostro problema è dire che il nome e cognomi sono degli specchietti per le allodole che possono attirarti tanto un successo fallace, appunto, di essere merce, o tante controindicazioni di cui tutti quanti qui, perlomeno coloro che parlano, ma anche coloro che ci ascoltano, sono stati poi soggetti. Per cui a chi ci accusa di balbettare e insinuare, sono due. Il primo verbo è purtroppo appartiene a coloro che hanno una difficoltà nel parlare, per cui chi balbetta non è insicuro, ma purtroppo non ripete delle sillabe perché non ne può fare a meno. Ma noi non insinuiamo niente, noi siamo sempre, proviamo a essere degli individui trasparenti. E poi vogliamo ricordare, così a mo' di come raccontiamo le nostre cose, di come portiamo avanti la controinformazione, di come raccontiamo anche delle storie che sono pensate, che fanno parte di magari di una finzione, che fanno parte appunto di una narrativa. Noi crediamo che quando l'insurrezione diventa accademia, per cui un'insurrezione va bene e un'altra va meno, fatti salvo una serie di principi che ci rendono affini e sodali, quando l'insurrezione diventa accademia e si può disquisire sui particolari di chi è in una maniera o di chi è in un'altra, chi afferma queste cose manifesta tutto il proprio essere. Eravamo arrivati dopo una storia ambientata nel porto di Napoli di una persona che ci ha raccontato quali sono le traiettorie che attraversano il commercio di merci occultate all'interno di scatole di metallo chiamate oggi container, quelle stesse scatole che modificano i nostri paesaggi metropolitani e non. Siamo arrivati, ricordiamo, perché appunto andiamo in onda a distanza di una settimana, per cui speriamo di non essere tediosi, ma di fare un favore a coloro che ci ascoltano, che questa stessa persona, essendosi licenziata da dal terminal container dove lavoravo, ovvero sia quello all'interno del porto di Napoli, si era poi deciso ad imbarcare su uno dei cargo che quotidianamente solcano il Mediterraneo orientale ma anche gli altri mari del mondo. Nel raccontare un esempio, si era partiti dal porto di Salerno, un imbarco, e adesso si arriva alla descrizione della crew, ovvero sia quel termine inglese che indica l'equipaggio. Il cargo ha 30 persone in equipaggio, 12 sono italiani, gli ufficiali di macchina e di coperta, gli allievi, l'autista di bordo, detto anche il driver, il cuoco e il nostro uomo è il capo dei marinai di bassa lega. Il primo ufficiale di macchina è un rumeno. I marinai, il piccolo di camera, gli ingrassatori e l'elettricista sono invece filippini. Fino agli anni 80 i marinai italiani viaggiavano per mezzo mondo. Le petroliere delle Sette Sorelle erano popolate da liguri, siciliani e campani. Erano gli statunitensi, gli inglesi e i francesi a voler rimanere a terra, a fuggire dal mare. Con l'innalzarsi degli standard di vita, il radicalizzarsi delle crisi petrolifere e le ripetute cadute inflattive dell'economia internazionale, la necessità di mantenere bassi i salari ha sostituito la volontà di assicurare il primato nazionale degli equipaggi. E a bordo si è incominciato a parlare mille lingue. Gli stranieri, chiamati in gergo gli scurotti, occupano le posizioni di bordo più umili e faticose, sui cargo, come sulle navi passeggeri o sulle crociere. Agli occhi degli scurotti il salario non è basso. Per esempio Manuel, l'elettricista, guadagna bene secondo i suoi parametri, ovvero circa $2,000 al mese. A casa sua, nelle Filippine, possiede una piccola villetta e i suoi bambini frequentano una scuola internazionale privata e molto costosa. Lui è imbarcato per 8-9 mesi l'anno e il resto li passa a trafficare e ultimare lavori edili sempre necessari quando un uomo è via da casa. A bordo risolve qualunque tipo di problema elettrico, ha un diploma di ingegneria informatica navale e si arrangia anche con i sistemi operativi della nave per le comunicazioni e quelli che servono per l'organizzazione del carico. Indossa una tuta blu senza maniche e in testa porta una maglietta scolorita legata a mo' di bandana, il che lo fa somigliare a uno dei pirati della Malesia che popolavano, perlomeno la mia fantasia costruita sui libri di Emilio Salgari. Nell'arcipelago delle isole filippine il lavoro del mare è una vocazione di massa. Si dice che i marittimi asiatici siano bravi, tutti tranne i cinesi, ma forse è solo una maldicenza, sorta in reazione all'invasione di marinai dell'impero celeste. In mare però, paradossalmente, non c'è razzismo, i rapporti sono quasi paritari. I parametri della stima sono l'efficienza e la conoscenza del mestiere. Esistono in effetti casi di schiavitù vera e propria, ma è un fatto indipendente dalla razza. È una questione legata al mercato del lavoro. Accade purtroppo che uomini vengano letteralmente sequestrati da armatori senza scrupoli che sottraggono loro i documenti e li obblighino a lavorare senza salario in imbarchi che durano anni. Succede per lo più sui tramp, quelle navi che non seguono tratte preordinate ma navigano a chiamata. Di solito sono natanti di proprietà di piccoli armatori che le lasciano vagare senza sosta, pronta ad arrivare laddove c'è un carico da trasportare. Per i lavoratori schiavizzati di una nave che attracca di rado, la fuga diventa quasi impossibile. Nel Mediterraneo di casi simili ce ne sono stati a bordo di petroliere o cisterne che al tempo del container caricano e scaricano agganciando un tubo che ormai è ben lontano dalla costa. Qui, sulla nostra nave, gli ufficiali sono tutti italiani, provengono dall'isola più grande del Golfo di Napoli, Ischia. In tre sono terranei, il comandante, il primo ufficiale e il direttore di macchina, il capitano comandante è pugliese e gli altri sono originari della costiera sorrentina e orgogliosi dei loro abusivismi edilizi finanziati dal piccolo capitale accumulato in mare. Gli allievi ufficiali sono di Messina e di Gaeta. Ce n'è perfino uno romano che anima i corridoi della coperta con quella sua parlantina della cadenza slabbrata, non convenzionale alle orecchie della gente di mare. A bordo tutti hanno una lunga esperienza di mare che fa a pugni con l'età. La gran parte degli ufficiali e dei marinai non supera i 30 anni, ma hanno già navigato per mezzo mondo: cargo, portacontenitori, rimorchiatori d'altura, petroliere, posacavi, chimichiere e navi miniera. Alcuni hanno visto l'Antartide e il Polo Sud, altri i mari tropicali, altri ancora le tempeste dell'Atlantico. Quasi tutti hanno visitato gli enormi porti asiatici, conoscono a menadito quelli dell'Africa occidentale e dell'America del Sud. Chi, in un modo, chi in un altro, è innamorato del proprio mestiere e del proprio stipendio. A bordo però si mastica amaro, anche se il mare per l'equipaggio è il mestiere di vivere. Si naviga affidandosi ai computer di bordo, senza i quali ormai ci si sente abbandonati in mezzo alle onde. Le stelle sono ormai mute per i più giovani, non indicano più nessuna strada. Il secondo ufficiale è un napoletano, non più giovane, vissuto molti anni sui moli di Genova alla ricerca di imbarchi. Anni fa, arruolato in fretta e furia su un mercantile malmesso diretto in Grecia, si accorse fin dai primi giorni di navigazione che qualcosa a bordo non andava. Le stive del ponte avevano i boccaporti completamente arrugginiti, con le chiusure difettose tenute insieme da grossi catenacci. Le chiavi le aveva solo il comandante. Procedura assai ben strana in tempi di safety first, sicurezza prima di tutto, il motto che è riprodotto sulle paratie di tutte le navi da migranti. Quella nave lì era un ammasso di ruggine ridipinta per le formalità di porto. La sciatteria dell'equipaggio lasciava intendere una fine prossima, ma non del viaggio, bensì dell'intera nave. Alcuni marinai aprirono le prese a mare del locale macchina, lasciando entrare l'acqua che in breve inclinò il cargo. Altri tesero al massimo le catene delle ancore con la monachella di prua, decapitando di fatto la nave. Lo stridere del metallo che si squarciava coprì per un attimo il ritmo ipnotico della risacca notturna. Si era a largo delle basse coste tirreniche del bel paese. Fu lanciato il segnale di abbandono nave. L'equipaggio, composto da marginali del mare, i marinai reclutati tra i disoccupati di lunga data, calarono in mare le lance di salvataggio e si diedero alla fuga, comandante in testa. Nessun ferito, nessun morto e un ricco premio per l'assicurazione dell'armatore, di cui i marittimi hanno visto solo le briciole. Ma quelle stive sono rimaste sigillate dai loro catenacci, nascondendo chissà quale segreto velenoso o costoso, ma comunque da smaltire. Anche il mestiere del mare ha i suoi lati marci e a bordo tutti ne sono consapevoli. E quindi si negoziano le relazioni, si attutiscono le intemperanze, ognuno esercita un personale esercizio per irrobustire lo spirito. Le cabine affacciano su corridoi angusti di formica, intrecciati come i cardini dei comandi delle città a pianta ippodamea. È un reticolato di angoli e di spigoli. Una notte mi inciampa addosso un ragazzone in pantaloncini da jogging, canottiera e scarpe da corsa, un tipo corpulento, riccioluto e vigoroso. L'impatto mi fa capitombolare all'indietro. Oh, scusi tanto, c'avevo le cuffie, non l'avevo sentita. Si è fatto male, mi dice levandosi di fretta gli auricolari di un minuscolo iPod. Non fa niente, tutto a posto, ma il mio sguardo, sorpreso dalla tenuta ginnica, gli chiede, forse involontariamente, delle spiegazioni. Sì, io corro, lo faccio per allenarmi, per tenermi in forma, perché giù, nella macchina, stiamo sempre seduti, non ci sta spazio. Ma perché non corri fuori, sul ponte, dico io? C'è l'aria fresca, c'è spazio, è un ponte grande. Fuori? Oh no, fuori c'è il mare, a me non piace, mi fa paura, preferisco restare dentro, sa com'è il buio, tutta quella massa scura che si vede fuori, preferisco stare chiuso e poi si suda anche di meno. Il ragazzo è uno dei macchinari, come a bordo vengono chiamati gli ufficiali e i marinai di macchina, a chiamarli così l'equipaggio di coperta. Tra le due sezioni della nave non corre buon sangue, esiste un'ostilità, una competizione tradizionale. Gli uni si sentono superiori agli altri. Senza macchina non si naviga, ma senza coperta la macchina è cieca. Questo i macchinisti o i macchinari non lo capiscono. Il comparto macchina ha tempi di lavoro certi, definiti, e nei mercantili più moderni non hai turni di guardia, il che significa che a una certa ora del giorno, genericamente il tardo pomeriggio, i macchinari sono liberi di cenare, giocare a biliardino, vedere un film o appunto correre per la nave. La sezione di coperta invece copre i turni di guardia ogni 4 ore, spezzettando il ritmo lavorativo in più segmenti che destabilizzano il sonno. Sono due aspetti del mestiere e la loro ostilità, latente o dichiarata, contribuisce a tenere alta la tensione a bordo, pungola la competizione e migliora il lavorio della nave e la sicurezza di tutti. A bordo si vive in una situazione di fatto concentrazionaria, anche se questo avviene per una scelta di vita. Le galee cristiane di Venezia, vittoriose a Lepanto, e quelle sconfitte dai nuovi galeoni dallo scafo ovoidale che portarono nel Mediterraneo la supremazia nordica, forzando Gibilterra, navigavano grazie alle braccia di costretti, carcerati imbarcati con la forza sulle galere, divenute già nel Medioevo galere. Per molti oggi il carceriere è il mare stesso, quell'immensità liquida che li circonda e su cui si addormentano, mangiano e vivono. Gli spazi angusti della nave li tengono a galla, di fronte alle coste di Finisterre, li proteggono dalle onde del Golfo di Biscaglia, dalle mareggiate in prossimità di Cirenaica. A largo è l'equipaggio a fare la nave e non viceversa. L'andatura del cargo dipende dagli uomini che ci vivono a bordo. Is what's real, what I'm given to understand is exactly what I steal. I went my way to the heart of the crowd, went my way to the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose myself in the crowd. Shots, I'm questi che ci hanno intervallato erano i Magazine dal pezzo Shot by Both Sides. Riprendiamo parlando di la guerra di corsa post-moderna. Tra pirati e corsari c'è una netta differenza. I primi erano predoni, agivano per se stessi e il proprio gruppo di affinità. Erano dei veri e propri criminali del mare. I secondi agivano per conto di armatori, impresari o governi da cui ricevevano le lettere di corsa, o anche dette lettere di marca, che li autorizzavano ad assaltare e depredare le navi nemiche. Le loro erano rapine a metà tra pubblico e privato. I corsari del Mediterraneo erano arabi, genovesi, sardi, ottomani, mori, veneziani, livornesi, napoletani, biondi rinnegati nord europea, cercatori di ventura andalusi, un popolo del meticciato mediterraneo. Le coste mediterranee del Marocco e dell'Algeria erano la loro retrovia, portavano avanti affari insospettabili nei porti liguri, francesi, greci o catalani, trasformavano i canali e gli arcipelagi del mare interno in trappole. Ogni isola poteva nascondere un tranello. Combattevano appunto una guerra di corsa con battelli veloci che sfidavano navi di tutte le stazze. Agivano protetti dall'ombrello di mercanti notabili che li usavano per il possesso e il predominio nel campo di battaglia dello scambio della merce. Con l'avvento del ferro e del vapore in mare, il saccheggio ha smesso di essere il fine dei corsari. L'obiettivo non era più fare e non fare arrivare i carichi del nemico a destinazione, e la guerra di corsa è diventata un affare trattato da incrociatori, corazzate e mercantili pirata camuffati da navi commerciali. I due conflitti mondiali del Novecento sono stati vinti da coloro che hanno assicurato il controllo dello spazio marittimo. Quelle corazzate dette tascabili naziste scorazzavano per gli oceani aumentando la scala del conflitto. La Graf Spee, una corazzata tascabile per l'appunto, fu colata a picco nel porto di Montevideo dopo un viaggio da pirata iniziato nel porto di Bergen in Norvegia, collaborazionista. Nell'Atlantico settentrionale gli U-boot, i sommergibili, erano i nemici sommersi dei convogli di aiuti statunitensi alla Gran Bretagna. Erano corsari invisibili di una guerra di corsa dai tratti moderni. Più a sud, il Mediterraneo diventò il teatro di una mattanza umana. Nelle acque del Mar Egeo, del Mar Libico, di Pantelleria, di Malta, si sono inabissati decine di mercantili partiti dai porti di Napoli, Taranto e Genova. Ma a differenza delle spedizioni alleate, erano colonne di navi mercantili prive di scorta, spedite al massacro da un allucinante sogno megalomane del regime fascista. Grazie all'incompetenza dell'alto comando della Marina Militare, i cacciatorpedinieri e i rosiduranti inglesi flagellavano le navi della Marina Mercantile Italiana, cariche di armi, materiali e di soldati destinati all'Africa Corps. La supermarina fascista fu azzoppata, ancora ormeggiata nel porto di Taranto e poi definitivamente devastata con facilità disarmante al largo dello spuntone di Capo Matapan, uno delle cinque dita del Peloponneso. Malta era l'isola corsara che teneva in scacco l'intero Mediterraneo. Con la fine della guerra si sono dismessi i cannoni, ma la guerra di corsa moderna è continuata notte dopo notte a bordo di cargo petroliere, combattuta con armi morbide, soffici come la merce. I lavoratori del mare sono una legione straniera navigante, gli armatori sono imprenditori del mare, privi di quell'etica marinara e commerciale perdurata per secoli e tramontata di fronte al predominio dei bilanci e del profitto. Il mare, al tempo del container, è uno spazio commerciale. Nessuno più ascolta le onde, il respiro degli oceani e dei mari interni. I cargo spianano autostrade marittime che restano il modo più economico rispetto ad ogni altro tipo di mezzo di trasporto, altro che TAV. Gli agenti marittimi, le compagnie di navigazione, gli spedizionieri, le imprese portuali impostano il ritmo della produzione e la velocità dell'esecuzione in eserciti che combattono una guerra di corsa postmoderna. La gente di mare è diventata un insieme di operai corsari che guidano fabbriche galleggianti. Le lettere di corsa odierne sono i contratti stipulati con le acciaierie cinesi, con le raffinerie libiche e italiane, con gli industriali della carta svedesi, con i produttori di scarpe turchi, con le industrie automobilistiche di tutto il mondo e i terminalisti di container di ogni dove. I lavoratori del mare sono soldati disarmati. Li amministra un potere soffice, soft power, ma non meno violento di quello che affidava ai brigantini e ai velieri le sorti del proprio commercio. I porti sono i bastioni della civiltà del consumo di massa, sommersi da pile di container. I cargo sono gli avamposti galleggianti che fanno della velocità l'arma strategica della competizione mondiale. Nella foga della corsa bruciano ancora le navi. Brucia la Emma Maersk, la più grande portacontenitori mai costruita, sconquassata nell'oceano Atlantico da un banale guasto elettrico. Brucia in balia del mare con la poppa che lascia cadere in acqua contenitori in fiamme. Le scatole di ferro trascinano catene, verricelli, aste di ferro e twist lock. Il fuoco arriva fino alla plancia, aggredisce gli alloggi. La corazzata commerciale brucia senza essere stata attaccata. È un gigante immobile, circondato da container semiaffondati. Non sono passati che 2 anni dal suo varo, il 12 agosto del 2006, nei cantieri della Odense Stahlkipsverft, nel fiordo danese di Odense. E a pochi mesi dalla trionfale corsa inaugurale tra l'Europa e la Cina, era partita dal porto di Aarhus la mattina dell'8 settembre del 2006 e vi fece ritorno l'11 novembre dello stesso anno. In appena 2 mesi la Emma Maersk ha attraversato per ben 2 volte lo stretto di Suez, ha caricato i primi container a Singapore la sera del 1 ottobre 2006 e li ha fatto dopo appena 3 settimane dalla partenza. Da Singapore ha proseguito per il porto di Yantian, passando poi per Kobe, Nagoya, Yokohama, Hong Kong, Tanjung, Pelé Pass, Felixstown, per tornare di nuovo nei porti di Nord Europa. L'equipaggio di questo gigante del mare era di sole 13 persone. La corazzata dei container trasportava 13.000 TEU di scatoloni colorati. Era un cargo dalla linea elegante che perdeva snellezza man mano che le Paceco inesorabili la riempivano di merce containerizzata e bruciata, forse per un peccato di hubris, per aver sfidato il mare in maniera troppo ardito, per aver voluto correre, appesantita da troppa merce. can never, never, never believe the bleed out to doubter. Even if you do not think so, he's the vast free open witness, watching all the ways you walk. This information may feel like a five-ton rock falling on. You're the witness behind you, standing there without fear, untouched by the torture. You never disappear. There'll be a time when you turn round to see your real derivation. Now I stop talking. You're the witness behind you, standing there without fear, untouched by the torture. You never disappear. There'll be a time when you turn round to see your real derivation. Now I stop talking. All the rest is speculation. Sveglio alla luce di un neon, la mia cabina non ha oblò. Prendiamo il caffè nella saletta del ponte, sono le 5 del pomeriggio. Tra poco saremo al Pireo, il porto di Atene. In plancia la radio gracchia, i portuali greci sono in sciopero, bloccano e incendiano le banchine. Noi siamo costretti quindi a proseguire. In poche ore sfioriamo le Cicladi, sfrecciamo per il Dodecaneso, tutto intorno ci sono isole di ogni dimensione che ci accompagnano fino alla costa turca. Io immagino gli antichi velieri di legno impegnati nella loro corsa, nei loro agguate, in attesa di tranelli orditi nelle grotte che bucano la costa invasa dal mare. Procediamo spediti a 22 nodi, è giorno ormai. Il sole illumina i paesini arroccati sulle isole, costruiti dai pescatori di Frodo, esperti nella pesca con la dinamita e negli assalti ai mercantili ottomani da cui prelevavano le provviste per i duri inverni isolani. Un grande scoglio semiemerso ospita un faro di segnalazione e l'isoletta è un territorio conteso tra la Grecia e la Turchia. Nell'unica casetta costruita vive una vecchietta che saluta le navi agitando un fazzoletto grigio. Le passiamo tanto vicino da distinguere l'intreccio elaborato della sua acconciatura. Chissà, forse lei è un apolide. Quando non ci sarà più turchi e greci, si contenderanno le sue spoglie. Il comandante mi racconta che quella vecchina ha più di 100 anni e sono quasi 50 anni che lui naviga e ricorda la donna fin dal suo primo passaggio. Era già una donna anziana quando lui era solo un giovane terzo ufficiale di crociere ancora di lusso e non di massa. Le navi andavano più lente, nei pressi del faro rallentavano. Ma ora guai a rallentare, il tempo è denaro. La corsa della marina mercantile incide sulle tariffe, chi corre abbassa i prezzi di trasporto. I motori a diesel dei cargo accorciano le distanze del mondo, mentre permettono a Icargo di combattere in maniera competitiva la guerra di corsa postmoderna. Nel Mediterraneo le navi non navigano mai solitarie. Intorno sfilano mercantili di tutti i tipi, colori e dimensioni, imponenti traghetti ro-ro, roll-on, roll-off, fasciati nei loro colori aziendali, navi fattoria per la pesca industriale dalle murate bianche e azzurre, petroliere portanafta dagli scavi rossi e gialli, pescherecci d'altura dalle fiancate color ocra. Ogni nave si porta dietro un alone di polvere e di ruggine. Di notte, luci bianche e verdi si rincorrono sulle autostrade del mare, definite da una segnaletica a occhio invisibile. Il monitor del radar indica un tracciato di rotte, sottolinea le priorità di passo, anticipa gli inconvenienti. Mentre viaggiamo verso Smirne, lo stesso radar segnala decine di cargo che ci circondano nella notte. Sono le corvette, gli incrociatori, le corazzate, i brigantini e le galere che in tempo di pace combattono la guerra di corsa al tempo del container. Tramp e navi di linea si rincorrono scrutandosi sullo schermo elettronico. È una battaglia quotidiana fatta da poche regole e molti sotterfugi. Le bandiere di comodo, i carichi fantasma, le false certificazioni. La guerra di corsa del commercio è fatta da soldati regolari e irregolari, da mercenari, schiavi e anonimi, eroi di ventura. A bordo si vive in un continuo azzardo. La disciplina è dettata dalla paura di perdere il profitto, di restare a terra ma a mangiare il fiele della disoccupazione. In plancia, intanto, la radio gracchia. L'ufficiale di guardia, visibilmente seccato, afferra il microfono. Do you read me over? I call for red to red. Red to red è il modo convenzionale per dire alle navi più lente: spostati. E davanti a noi c'è un cargo russo diretto in Egitto che non supera i 15 nodi e naviga proprio sulla nostra rotta. Ma noi siamo più veloci perché noi navighiamo a 23 nodi. Per le regole del mare abbiamo diritto di superare. La radio del cargo, che il computer riconosce con il nome di Volga, rimane muta. Continua a procedere lenta, seguendo una strategia finalizzata a rallentarci. Good morning, sir. I call from. We ask to red, ok? Do you read me over? Start with red to red, left side. Continua l'ufficiale che vede il suo suono allontanarsi sempre di più dal Volga. Non vediamo che luci rossi e verdi di prua e poppa. Prendo il binocolo e riesco a indovinare le forme mimetizzate dall'oscurità. Una sparuta lingua di luce lunare illumina la pancia del cargo russo affondata nel mare. Dalla plancia nemica non rispondono. Forse sono solo semi addormentati con il volume della radio basso. Per alcuni minuti domina l'incertezza sul che fare, come diceva Lenin. Chiamiamo il comandante, rallentiamo la corsa, ma poi il red to red va a buon fine e la guardia del Volga si sveglia e risponde e inizia a farsi da parte. Ok, sir, thank you, sir. Good watch, good night. Johnny, il terzo ufficiale, saluta il marinaio russo a modo suo. Lieutenant, dobbiamo correre noi. La notte è quasi finita, in coperta c'è fibrillazione, siamo nei pressi del fiordo del gatto che protegge il porto di Smirne. C'è cattivo tempo, le onde sono corte e ripetute, il fiordo ha le rive stringenti, poi si allarga diventando la baia su cui si adagia la città. Nella penombra dell'alba quella metropoli si mostra come una mezzaluna di luci colorate. We'll be right back. Hawks con il brano Hard to Explain. Ora leggiamo una breve notizia di controinformazione arrivata poco prima che si andava in diretta radio, e poi dopo si continua subito con l'ultima botta di lettura di, della Zandraia. Allora, la compagna che fa colloqui con Alfredo Cospito nel carcere di Ferrara ci fa sapere che in seguito al colloquio fatto con il mattinale con Alfredo si apprende che Adriano, uno dei due compagni arrestati a settembre, è stato trasferito lo scorso fine settimana nella S2 di Ferrara, che pare confermarsi come sezione destinata agli anarchici in attesa di processo. Per descrivere Adriano, come per scrivere ad Alfredo, a Nicola o Sergio, allora Adriano Antonacci, via Ginone 327, numero 327, 44122 Ferrara, tra parentesi FE. Invece vabbè, per scrivere agli altri, Alfredo Cospito, Nicola Gai, Sergio Maria Stefani. L'indirizzo è lo stesso, lo potete trovare sulla reazione, sia sull'articolo che poi dopo verrà aggiornata la lista dove ci sono gli indirizzi per i compagni detenuti. Ora ci leggiamo direttamente, ci facciamo l'ultima lettura della Zandraglia, poi dopo si tornerà con me, vi do gli indirizzi e tutto, e l'appuntamento per venerdì prossimo. Sul mare libero possono tornare immediatamente i compagni detenuti a solcarlo e a guardarlo, e subito. Izmir, Smirne. Il cargo entra in porto facendosi largo tra le barchette di legno dei pescatori di Amsi, le Alici, che hanno l'abilità di scansarsi solo un momento prima di essere travolti. I pescatori esitano. Restano impassibili e concentrati sul galleggiante che pende dal nylon. Seguono i banchi di pesce azzurro, incuranti dei mercantili e dei battelli che collegano le due sponde della città. Smirne è un fiordo mediterraneo delle colline irte di moderne residenze alveari tipiche del Medio Oriente e di alcuni spicchi dell'Europa del Sud, attraversate da sentieri antincendio che proteggono gli alberi superstiti dai rughi estivi. Noi passiamo di fianco al porto antico, ora lo chiamano waterfront della città. Le antiche costruzioni del XIV secolo sono sovrastate da grattacieli di vetro che riflettono saette di sole rosso. Sono lampi crepuscolari che esaltano le strutture di ferro del nuovo terminal container del porto turco in costruzione. Anche a Izmir le banchine mettono in mostra la grammatica sconnessa di lettere e ideogrammi che testimonia il potere mercantile del nuovo secolo. Container colorati cinesi Cosco, Yang Ming, Evergreen si mescolano agli anseatici Maersk e ai elvetico sorrentini MSC. Il nostro cargo procede lento ma deciso. Gli si affianca un rimorchiatore arancione e bianco dal nome Tol Motz. Ci spinge con la prora arrotondata. La nave nostra tremola leggermente, i filippini lanciano i cavi per l'ormeggio e i verdicelli meccanici iniziano a srotolare metri di corda metallica che gli ormeggiatori in pettorina fosforescente corrono ad assicurare alle bitte sulla banchina. Il comandante osserva le operazioni dall'alto, mugugna al segnale libero, ovvero a ormeggio finito, lancia due stecche di Marlboro agli ormeggiatori che ringraziano sbracciandosi dalle loro figure minuscole, recuperano le sigarette e le mettono sotto un container nascondendole con un asse di legno poco lontano dalle pale meccaniche Volvo, l'avanguardia del nostro carico. Ci saranno una ventina di mezzi cingolati parcheggiati a ridosso del mare. Più avanti sulla banchina alcune motrici allineate disordinatamente sono in attesa dei carrelli ro-ro da sbarcare. Un paio di portuali in camicia bianca fumano seduti poco distanti. Le unghie della nave vengono smosse da 5 pompe idrauliche che calano la rampa di sbieco al molo. La bocca della nave è leggermente asimmetrica all'asse del naviglio in modo da ormeggiare con ogni condizione meteorologica. Sulla banchina inizia un carosello ininterrotto di camion, bisarchi, automobili in salita e discesa, carrelli, portacontenitori, mezzi cingolati. Anche ad Izmir, come a Salerno, i portuali si trasformano in autisti di automobili che sgommano e graffiano le carrozzerie mentre salgono dalla rampa ai vari livelli della pancia della nave. Io ascolto un'ennesima sinfonia meccanica composta da frenate, da pneumatici che sfrigolano sulle curve angolate, da urla e motori rombanti. Le auto salgono. Straight on, all deck 7, straight on, up to here. Marittimi e portuali non di rado si detestano, soprattutto in terra straniera, tra nave e banchina. Il ritmo non è coordinato, hanno tempi diversi. Suda, il terzo ufficiale. Non fa caldo, ma suda. Si abbassa il cappellino degli Yankees di New York e si avvia dinoccolato verso l'entrata del garage. Le auto gli sfrecciano a fianco sollevando nuvole di polvere di nafta solidificata. Io lo seguo e fumiamo una sigaretta mentre controlliamo insieme l'andamento del carico sulla soglia dell'ufficio cargo, ricavato da una paratia all'inizio della rampa. Sempre a bordo ci raggiunge un tipo grasso e trafelato che si presenta come rappresentante dell'agente marittimo locale. Il boss è di sopra a bere un caffè con il comandante. Il capo è un pezzo grosso in Turchia, un uomo ricco che controlla un impero basato sui trasporti marittimi e terrestri, ma lui di norma si muove in elicottero. Il rappresentante e due portuali ci scroccano alcune sigarette, poi il grassone si avvicina con un sorriso sornione, si infila il dito medio in bocca e sputacchiandomi fa: Izmir, good gay, city gay, very good gay. Ma io gli offro un'altra sigaretta e mi lascio inghiottire dal deck 3 dove stanno rizzando i container. Tra banchina e nave il traffico continua, al calare del sole il muezzin ferma tutti. Mezz'ora di pausa non preventivata, ma poi di nuovo in moto. Nessuno prega, in quella pausa si beve il tè. Sono laici. Dopo l'ultimo acuto rauco, i rumori del porto riprendono a rimbombare dal ventre del cargo come sussulti di un intestino un po' malaticcio. Il direttore di macchina del nostro cargo, corpulento ufficiale della costiera sorrentina, mi assolda per un'escursione nel bazar della città e io mi ritrovo ad accompagnarlo con moglie e figlia al vecchio centro cittadino. Do fondo alle mie riserve linguistiche, un po' di inglese, il tedesco, un po' di turco smozzicato. Sua moglie e sua figlia si erano imbarcati a Salerno usufruendo di quella possibilità che la compagnia regalava agli ufficiali di poter portare i congiunti per un breve periodo a bordo, soprattutto nei mesi estivi. La moglie, mamma, ha passaporto sudafricano, la piccola, un po' scura in volto, ne ha uno italiano. La sua di pelle è ambrata come quelle delle tribù Zulu dell'Africa del Sud, l'origine della mamma. Espletate le ultime formalità con le autorità, ci avviamo a terra con il nostro landing pass, un documento che ci autorizza a scendere e uscire dal porto. I mezzi pesanti ci passano di fianco, veloci. La bambina corre pericolosamente tra le luci dei fari e gli spostamenti d'aria provocati dai tir in transito. Non è un posto per vecchi il porto, ma neanche per bambini. Alla dogana ci degnano di uno sguardo annoiato. Il Medio Oriente aggredisce le narici con i suoi odori. È venerdì e molte persone sono vestite a festa. Il centro della città è pieno di bambini in giacca e cravatta, uomini barbuti in caftano e gandura. Io cerco disperatamente una birra, vorrei trovarne qualcuna in più da bere con i ragazzi alla fine del turno di guardia notturno, ma è un'impresa assai complicata. La maggior parte dei chioschi della città non vende alcol. Allora mi accontento di un Ayran, una bevanda rinfrescante a base di yogurt. La famiglia del direttore di macchina, accede allo shopping coloniale, fa acquisti insulsi di oggetti di folklore. Compriamo anche della frutta fresca, le pesche sulle bancarelle hanno le dimensioni dei nostri meloni gialli. Passate 3 ore al centro della città, riprendiamo il taxi per il porto. Quando il taxi ci lascia al gate, l'entrata del porto commerciale, mi avvio al varco doganale per primo, perché io ho fretta, devo tornare a lavorare. Il direttore di macchina, la consorte e la bambina mi seguono nella maniera disordinata con cui si muovono le famiglie nell'incombenza di un viaggio. Io, per quanto mi riguarda, tiro fuori il passaporto e il mio landing pass. Il poliziotto turco alza a malapena le palpebre per verificare il timbro e mi scaccia via. Oltrepasso la barriera di filo spinato e cammino veloce verso la banchina. Non faccio che pochi metri e mi sento richiamare. C'è il direttore di macchina che mi fa ampi gesti, circondato da divise grigie della polizia turca. Lo sento inveire contro le guardie in dialetto sorrentino. Nessuno capisce e quindi io intervengo in inglese. Mi rispondono in un turco assolutamente fuori dalla mia portata. Tuttavia, non ci metto molto a capire. Loro, gli sbirri, si rifiutano di far passare le negre, mamma e figlia, nonostante il landing pass. Io, nel mio inglese, mi sforzo di fargli capire che se eravamo usciti insieme dovevamo pur rientrare insieme, e per convincerli indico la nostra nave ben visibile, illuminata a giorno da illuminata i riflettori della banchina. Ma i poliziotti, come quelli di ogni dove, sono duri di comprendonio e a ogni latitudine. Ma quelli turchi hanno iniziato a raschiare il fondo delle mie doti diplomatiche, linguistiche e persuasive. Lascio intendere loro che c'è la possibilità di una mancia, ma le loro orecchie restano sorde. Poi perdo la pazienza, il direttore agguanta la moglie, io afferro la bambina e forziamo gentilmente il varco senza girarci indietro. Un ugolio di voci incomprensibili sembra rincorrerci. Noi aumentiamo il passo, oltrepassiamo il muretto di cemento del molle, ci nascondiamo nell'andirivieni dei camion e poi continuiamo a camminare a passo svelto verso la rampa. Gli ufficiali di guardia con il comandante in testa ci vengono incontro allarmati dal nostro ritardo. 3 guardie turche arrivano dietro di noi visibilmente alterate e io, mentre aiuto le donne piccole e grandi a tornare a bordo, vedo gli ufficiali che provano a contenere il direttore che aggredisce i poliziotti. Arriva perfino il nostro agente marittimo che, con frasi rapide ed efficaci in turco, convince le guardie di andarsi a bere un chai, che è il tè. Poi la faccenda si è definitivamente risolta con il regalo di stecche di sigarette ben distribuiti a tutte le guardie. Arriviamo che è mezzanotte, quindi ci stacchiamo dalla banchina con tutta la nave. Mentre aspettiamo l'arrivo del pilota, dalle sponde del fiordo si iniziano a vedere decine di fiori colorati che esplodono in aria. Sono i fuochi d'artificio. Si festeggia qualcosa, ma che cosa? Ma è sempre così, ogni volta, estate, inverno, come da noi, a Napoli, ogni giorno c'è un fuoco d'artificio. È un uso tutto mediterraneo, a bordo lo interpretiamo come un saluto, una cortesia della città che ci porge le scuse ufficiali, ma noi sappiamo di mentire a noi stessi. Da terra, noi siamo soltanto delle luci in un mare di buio, nessuno ci vede mentre ci allontaniamo. Con questo si conclude qui la diretta d'azione di oggi, lunedì 7 ottobre. Ricordo che stiamo leggendo La Zandraia, il libro di Marcello, uscito l'anno scorso, se ricordo bene, l'anno scorso. Ci ho messo un po' di tempo a convincerlo a farlo leggere, poi dopo... Marcello senza cognome, poi ognuno può digitare, beh, si può trovare... Diciamo, Martino M.A. Allora, ricordiamo gli appuntamenti prossimi per Radiazione, la diretta d'azione per venerdì prossimo, 11 ottobre, in cui ci sarà solo controinformazione e musica. Ricordo anche gli indirizzi per Radiazione, per le mail, radiazione@autistici.org, lo ripeto, radioazione @audistici.org, così nessuno si lamenta che se manda qualche scritto a radioazione non gli venga pubblicato. Ovviamente non viene pubblicato tutto su radioazione, vengono pubblicate solo le cose, i temi che si affrontano generalmente, quindi chi segue il blog può capire di cosa si tratta sul blog di radioazione. Invece verrà altri iscritti, per le risposte specialmente agli iscritti di radioazione verranno sempre pubblicate, perché cioè, vabbè, va bene la censura sulle cazzate, però se uno scrive, se da radioazione vengono scritte delle cose, ovvio che verranno pubblicate anche le risposte. Allora, radioazione @audistici.org per la mail, invece per il blog già da domani potete andare ad ascoltare il podcast di oggi e anche il podcast del 25 settembre, perché ora finisce la radio, però noi ci metteremo al lavoro per registrare la prima parte del blog della diretta del 25 settembre. Quindi radiazione.noblogs.org, lo ricordo, nel blog c'è la controinformazione aggiornata quotidianamente, c'è la sezione download dove potete andarvi a scaricare gratuitamente, no merce, nessuna merce, opuscoli, qualche libro, qualche CD, qualche manifesto, dove potete andarvi a vedere anche gli indirizzi aggiornati dei compagni detenuti in galera. E se volete sapere i nostri nomi, rivolgetevi alla questura. Ovvio, quelli li conoscono alla memoria. Allora, appuntamento a venerdì 11 ottobre, contro informazione e musica, vi lascio con un brano dei Subhumans e vabbè, a venerdì.